Anno nuovo, vita nuova e l'inizio dell'anno è proprio il momento in cui moltissime persone si trovano a formulare nuovi propositi per nuovi obiettivi. Nel video della settimana scorsa abbiamo visto però come rendere questo un po' più concreto, perché non esistono i buoni propositi, esistono le buone azioni che ci permettono giorno dopo giorno di avanzare, di arrivare per raggiungere quell'obiettivo. Ora mi rendo conto benissimo che quando si tratta di un obiettivo pratico, concreto, diventa molto più semplice trovare un'azione concreta. Molto più difficile forse è farlo nel caso in cui vogliamo migliorare le nostre relazioni interpersonali. Se faccio qualche esempio concreto, probabilmente mi spiegherò meglio. Proviamo a partire da due obiettivi molto semplici e concreti, alcuni dei più gettonati ad inizio anno. Immaginiamo di essere uno studente che vuole laurearsi oppure una persona che vuole migliorare la sua forma fisica. Quest'anno voglio laurearmi. Ok, bellissimo proposito, ma un pochino astratto. Inizierò a chiedermi quali sono i passi che mi porteranno alla laurea. Ad esempio, mi mancano 10 esami. Ok, allora il proposito può diventare: quest'anno voglio dare 5 esami oppure voglio darne 10. Ma anche questo è ancora un obiettivo astratto, perché io non è che mi sveglio alla mattina e dico: ecco, oggi supererò un esame. Riuscirò a farlo attraverso delle azioni molto concrete che mi porteranno a affrontare quell'esame con serenità e a superarlo. Un'azione molto concreta potrebbe essere quella di decidere di studiare per 4 ore al giorno, ogni giorno della settimana. E per ogni ora di studio portata a termine io metterò una X sul mio calendario. Dopo una settimana andrò a riguardare il mio calendario e potrò rendermi conto se mi sarò mosso verso il mio obiettivo. E il calendario potrà essere molto impietoso oppure potrà dirmi: bravo, potrà dirmi: guarda, questa settimana hai studiato 20 ore, bravo. È un buon inizio, la settimana prossima puoi fare ancora meglio. Oppure potrà impietosamente dirmi: ma il tuo proposito è andato un pochino a bagno, non vedi che ci sono soltanto 3x? Ed ecco che la settimana prossima ripartirò da zero, riformulando ancora il mio proposito, magari modificandolo leggermente, in ogni caso continuando sempre a tenere traccia del mio obiettivo di portare a termine quelle singole azioni concrete ogni giorno e di segnarle con una X sul calendario. Perché noi alla fine non abbiamo potere sulla nostra laurea, non abbiamo potere neanche sul superare un esame, ma quello che possiamo sicuramente è dedicare più tempo allo studio. Ecco, su quello dovremmo concentrarci, su quello dovremmo focalizzarci. Oppure quest'anno voglio perdere 5 kg e voglio rimettermi in forma. Ok, bellissimo proposito, bellissimo obiettivo, ma come puoi renderlo più preciso, più verificabile, più misurabile? Da oggi inizierò a fare 3 allenamenti alla settimana. Quest'anno inizierò a mangiare una bella porzione di verdura ad ogni pasto e a merenda, invece di uno snack super calorico, uno yogurt oppure un frutto di stagione. Da oggi cercherò di fare 10.000 passi al giorno. Anche in questo caso, passata una settimana, passati 15 giorni, il calendario potrà dirmi in modo chiaro quante X ci saranno e quindi se mi sarò mosso concretamente verso il mio obiettivo. Ma se il nostro obiettivo riguarda invece la relazione con gli altri, in che modo posso rendere questo molto concreto, verificabile e misurabile? Mi rendo conto forse di banalizzare un pochino, ma provate a seguirmi nel ragionamento. Quest'anno voglio dedicare più tempo ai miei figli piccoli. Ok, ma come puoi renderlo più concreto? Ad esempio potresti dire: ogni giorno alla sera voglio dedicare almeno 20 minuti di tempo per stare con loro. 20 minuti, non 3 ore, soltanto 20 minuti. Segna una X sul tuo calendario ogni volta che lo farai. Il calendario non mente, il calendario non cede alle giustificazioni che a volte ci diamo nel non fare quello che ci eravamo proposti di fare, del tipo, eh sì, ma io questa settimana ho avuto tanto da lavorare, eh sì, ma dovevo sistemare delle cose in casa o nel garage. Per carità, non sono certo qui a dire che certi impegni pratici di casa, di lavoro, non siano importanti e non sia importante dedicare tempo loro, ma se tu comunque hai deciso, hai capito che dedicare più tempo ai tuoi figli è importante perché crescano sereni, accompagnati da te e dal tuo amore, allora in qualche modo dovrai tentare di rendere tutto questo molto concreto. Il calendario potrà dirti: bene, questa settimana ci sei riuscito 4 volte su 7, continua così, sei nella giusta direzione. Oppure, senti, in questi ultimi 30 giorni ci sei riuscito soltanto 2 volte, forse sarà il caso che rivedi un pochino le tue priorità. Potresti obiettare che non conta la quantità del tempo, ma la qualità. Verissimo. Fatto sta che se non c'è quantità, sicuramente non può esserci neppure qualità. Secondo proposito, quest'anno voglio aiutare di più mia moglie nell'organizzazione familiare. Ok, come lo rendo concreto? Potrò mettere una X rossa sul calendario ogni volta che avrò chiesto a mia moglie: amore mio, come posso rendere migliore la tua giornata quest'oggi e renderla più leggera? Oppure potrò mettere una X blu ogni volta che avrò lavato i piatti, passato l'aspirapolvere e sarò andato a fare la spesa al supermercato. Terzo esempio, quest'anno voglio curare di più il mio rapporto con il mio partner. A questo proposito prendo spunto, esempio, da una bellissima abitudine delle Équipe Notre Dame, un movimento ecclesiale di spiritualità familiare. Le coppie che aderiscono a questo movimento ecclesiale hanno come impegno quotidiano il DDS, il dovere di sedersi, ovvero il dovere di trovare ogni giorno un tempo, 5, 10, 20 minuti, per sedersi l'uno di fronte all'altro, raccontarsi la propria giornata, ascoltarsi, parlare di come sta andando il loro rapporto. Ecco, per curare di più il tuo rapporto con il tuo partner potresti prenderti questo proposito, anzi, è molto meglio se ve lo prendete insieme, sedervi ogni giorno 10 minuti per tenere vivo il vostro dialogo di coppia, per avere ogni giorno un tempo di intimità, tenerezza e confronto quotidiano. Potremmo continuare con altri esempi. Voglio curare di più il mio rapporto con Dio, metterò una X sul calendario ogni volta che ogni singolo giorno dedicherò 15 minuti di silenzio in preghiera, in chiesa, oppure dedicherò 15 minuti alla lettura del Vangelo o alla lettura di un libro spirituale. Voglio curare di più un'amicizia? Mi proporrò di telefonarle una volta alla settimana e ogni volta che lo farò metterò una bella X sul calendario. Erano soltanto alcuni esempi, sicuramente la vostra fantasia ve ne farà venire in mente molti altri. Ad una condizione però, che siano semplici, concreti, verificabili, misurabili, perché una singola azione è soltanto una singola azione, ma tante singole azioni ripetute diventano un'abitudine e tante abitudini acquisite formano un carattere. E spero che tra le tante buone abitudini tu abbia anche quella di guardare ogni settimana il nuovo video che esce. A questo proposito, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella. Lascia un like se vuoi e condividi questo video se ti sembra utile con tutti i tuoi amici.